l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, il nostro appuntamento settimanale in collaborazione con il network Euronet per raccontare sfumature europee. Radio 24 segue quotidianamente tutta quella che è la cronaca, che è l'attualità dell'Europa. Anche noi il sabato cerchiamo di fare un po' il punto magari su altre curiosità, su altre notizie, su altri punti di vista, oppure anche noi raccontiamo la cronaca ordinaria, ma cerchiamo dei nostri sguardi. Tutto ciò in diretta 349-238-6666 per i vostri sms, su Facebook invece nelle nostre pagine ufficiali facebook.com/l'altra Europa trovate l'aggiornamento in diretta con tutti i link relativi agli argomenti trattati. Si parla di Europa, l'Europa ieri insomma è stata caratterizzata da questo matrimonio che già avevamo raccontato a modo nostro settimana scorsa, ma anche questa volta ci torniamo perché insomma le nozze reali sono nozze reali e non avevamo un nostro inviato là, ma abbiamo trovato uno sguardo molto molto particolare. Un po' di musica con questa parodia reale. Spopola in rete su YouTube questo video. Questo ovviamente è solo la colonna sonora, ma vi invito ad andarlo a vedere perché è davvero divertente. Sono sosia di William e Kate e non solo, in questo ballo all'interno di una pseudo cattedrale, video che abbiamo già caricato in Facebook, ma là in diretta a seguire il matrimonio e così a raccogliere particolari e dettagli c'era l'attore, comico, insegnante, amico dell'Altra Europa. Diamo il benvenuto a John Peter Sloan. Ciao John. Ciao bello, come stai? Io molto bene, tu? Male. Sì, molto bene, adesso sono un po' stanco perché ieri è tutto il giorno a Londra, tutta la sera poi a festeggiare, è stata incredibile veramente. Ascolta, perché è comunque festa di popolo, no? Insomma, sia che uno sia monarchico, sia che uno sia repubblicano, comunque da questa festa si è stati un po' tutti contagiati, immagino, lì in Inghilterra. Ma questa è stata la cosa più interessante secondo me, perché doveva essere tutto, io ti confesso che quando del matrimonio, sì, era una cosa carina, però una cosa sempre molto prevedibile in Inghilterra, perché comunque va sempre tutto perfettamente, sempre più lungo, però quello che mi sono accorto essere qua a Londra ieri era veramente era una cosa proprio di più, era molto più di un matrimonio, era finalmente un po' di unità inglese per una cosa bella, perché l'ultima volta che tutta l'Inghilterra si è unita così era per un funerale, capito? Quindi era veramente bello, anche se io ieri dovevo trovare l'inglese per intervistare, perché volevo sapere come c'è dai giovani ai vecchi, e ho cominciato da centro Londra e mi sono messo tipo 30 minuti solo a trovare un inglese. Ah sì, oh my God. Ma tu avevi un punto di osservazione particolare? Da dove l'hai visto il matrimonio? Da dove l'hai seguito? Ma con tutti, noi siamo messi lì, una cosa che non pensavo mai di fare, siamo messi lì fianco alla strada per quando passavano, ma anche per caso, perché parlando, io mi divertivo tantissimo con il pubblico, cioè magari tanti hanno l'idea che uno sta lì a aspettare delle ore, fare niente finché che passano, soltanto per vedere che passano, invece no, era proprio festa, tutti erano amici, tutti si dividevano la birra tra noi scozzesi, era una cosa veramente bellissima, mm-hmm. Ma proprio bello, cioè io ho dimenticato anche che dovevano passare questi, anche delle polizie inglesi che scherzavano con tutti, era veramente festa, troppo bello, cioè, mm-hmm. Non c'entrava niente monarchista o non monarchista a un certo punto, secondo me. Era proprio, insomma, si parla di Europa, di Altra Europa, tu lì hai trovato tracce di questa Europa lungo questa strada, appunto, in attesa, ma perché era lì la gente, al di là dell'inglese? Hai detto che hai trovato tantissimi stranieri, era mera curiosità? Ma io penso che gli stranieri le vedono comunque sempre un po' come una favola da fuori. Okay. Ti devo dire che gli inglesi hanno preso... Cioè ieri stranieri o inglesi, cioè io prima ti dicevo che volevo parlare con gli inglesi, però sì. Ieri non era dell'Inghilterra, cioè non so come spiegare, era una festa veramente oltre, capito? Cioè... c'erano americani con australiani, con italiani, tantissimi italiani, spagnoli, erano tutti lì secondo me per vedere un po' di storia, per dire che quel giorno c'eravamo lì, capito? Perché tutta Londra a festa, tutti i tassisti che ridevano, ma quando mai? C'era una cosa incredibile, veramente. Poi c'era anche Bel Tempo, era una cosa oltre Inghilterra, oltre... Sì, dell'Europa c'erano comunque di tutti i colori, veramente. There was, everybody was there yesterday. John, ascolta, tu sei artista, sei insegnante, insomma, il tuo libro Instant English ormai è un manuale, è una... se uno vuole imparare l'inglese deve comunque sfogliarti e conoscerti, però tu sei anche comico, sei uno che va alla ricerca della satira e delle, certo, delle letture così un po' più bizzarre. Cosa hai colto di comico nella giornata di ieri? Allora, prima di tutto, quello che mi è piaciuto di più era un commento da un giornalista BBC, che loro solitamente sono molto molto impostati. Invece ieri c'era questa signora anziana che aveva la bandiera inglese dipinta in faccia, sì, il vestito tutto, cioè, era completamente coperta di bandiere, non riusciva nemmeno a camminare per tutte le bandiere che aveva intorno, e questa giornalista del BBC è andata da lei, l'ha guardato diretta negli occhi e ha detto: ma potevi fare un sforzo? Ha detto, no, this was, cioè, tutto intorno si sono morte da ridere, perché questo qua e qui hanno ironizzato tutti. L'hai visto anche il poliziotto comico che l'hanno messo, sì, finto in mezzo agli altri poliziotti, che cadeva, faceva l'ubriaco, urlava, cantava, cioè, ma certamente, cioè, le cose comiche per me erano gli anti monarchisti, cioè i vecchietti seduti per strada che urlavano per la Repubblica. Io lo trovavo divertente perché erano tipo 3 in 1 milione di persone. Wow. E in quel contesto, appunto, anche la loro protesta diventava qualcosa di surreale e di comico, perché insomma c'è contesto e contesto per protestare. Sì. E quindi... sì, sì, ma anche perché ieri ero un chiodo nella bara, sì, della Repubblicanism, perché comunque per un po' di tempo sembrava che la monarchia crollasse. Mm-hmm. Invece ieri, secondo me, c'è rinata proprio. Si è risvegliata un po' questa cosa. E poi feste, sì, in tutte le strade, feste tutta notte, credo, quindi una festa di popolo dove anche tu hai partecipato, lo si sente dalla voce, quindi non puoi nasconderlo. E mi pare che fossero 3 giorni di festeggiamenti previsti, quindi insomma giornate ancora allegre in quelle di Londra, in quelle di tutta l'Inghilterra. John, grazie davvero per averci raccontato quello che hai colto, e con John anche abbiamo un appuntamento importante, perché sarai con noi il 14 maggio dalla diretta dal Salone del Libro a Torino, dove faremo un po' di lezione d'Europa e lezione di inglese live dal palco del nostro studio, quindi preparati perché ti aspettiamo. Non vedo l'ora. Poi a me piace sempre lavorare con te, sei troppo forte. È l'ultimo complimento che ti faccio. Okay. Perché oggi sono ancora un po' ubriaco. Se no, ma infatti sono l'eco del matrimonio arriva fin qua nel nostro studio. Grazie John, ciao e buon sabato. Ciao, ciao. Grazie, al presto. Ciao, ciao. Europost-it. Un'estate in campo. Pensate a una vacanza con una meta europea, ma allo stesso tempo vorreste imparare cose nuove ed aiutare l'ambiente? Come tutti gli anni, ci sono i campi estivi che il WWF organizza per i ragazzi dai 6 ai 17 anni. Le avventure che si possono vivere in Europa sono tante. Dalle pedalate in bicicletta tra le risaie e le saline della Camargue per fare birdwatching, al trekking in bici sulle dighe d'Olanda o ancora, se vi piace il mare, osservare i pesci che abitano la Costa Brava e visitare la città di Barcellona. Tanti modi per una vacanza alternativa senza i genitori. Trovate tutte le info sul sito del WWF, wwf.it. L'altra Europa. facebook.com/l'altra Europa, dove non solo potete trovare già caricato il video parodia del matrimonio di Kate e William, ma potete trovare anche questa traduzione in inglese delle nozze di Figaro, che usiamo per introdurre il prossimo argomento. Ogni anno ci sono i giorni europei dell'opera, che attraggono gli amanti della musica in tutta Europa. Proprio il 7 e l'8 maggio, quindi il prossimo weekend, sarà interamente dedicato in Europa alla riscoperta scoperta del valore dell'opera. Ascoltare in modo nuovo sarà lo slogan di quest'anno, e proprio dell'opera e di quello che è lo stato dell'opera in Europa è il tema scelto da Euronet questa settimana. Lo sapete, un argomento comune che viene trattato dalle varie radio europee che appartengono a questo importante network. Per capire perché le giornate dell'opera e in cosa consistono in pratica, abbiamo invitato un coordinatore dei membri di Opera. Diamo il benvenuto a Gerard Philip. Ciao Gerard. Sì, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno e benvenuto all'Altra Grazie. Europa. Intanto, che cos'è Opera Europa? Allora, Opera Europa, dove lavoro io, è l'associazione professionali dei teatri lirici europei. Per il momento abbiamo 116 membri in più di 33 paesi, quindi non solo in Europa, anche in Giappone, nella Cina e nell'Europa in senso largo, la Russia, la Turchia, anche l'Ucraina. E quindi noi, le nostre attività si rivolgono soprattutto ai professionali del mondo dell'opera, cioè i direttori delle opere, i responsabili delle sartorie, dei tecnici, insomma tutti quelli che lavorano dentro di un'opera. Quindi fate un coordinamento internazionale su tutto quello che è a livello professionale, insomma il lavoro sì. e i lavori legati all'opera. Appunto, sì. Come sta l'opera? Come sta l'opera dal vostro punto di vista? C'è attenzione, c'è voglia, ci sono risorse? È comunque un movimento in fermento, un movimento vivo? Assolutamente, il pubblico risponde sempre più presente, quindi questa è una cosa bella. Io direi che l'opera è in ottima forma. Certo, bisogna pensare anche al futuro, al pubblico di domani, e perciò ci sono le Opera Days di cui parleremo dopo. Sì. La cosa un po' meno bella per il momento, direi, è la riduzione dei finanziamenti pubblici. Un soggetto che si conosce molto bene in Italia, purtroppo, ma anche in altri paesi. Quindi noi a Opera Europa stiamo lavorando, appunto, e stiamo cercando di trovare soluzioni alternative, nuovi finanziamenti. Mm-hmm. Ma direi che la cosa più bella e più importante è che il pubblico è sempre presente, le sale sono piene. Certo. Tra l'altro, un'accusa che spesso viene fatta all'opera è anche quella di costare tanto, forse costare troppo. Ci sono tentativi per fare opere belle di qualità, ma a costi più ridotti? Fanno oggi, per il momento è obbligatorio, siccome le sovvenzioni diminuiscono, quindi ognuno cerca di fare le cose a meno costo senza diminuire la qualità. Ma è vero, sì, l'opera è una cosa cara, perché c'è tanta gente coinvolta, l'orchestra, il coro, i solisti, poi tutta la gente, i tecnici che lavorano al teatro. Ma noi siamo convinti e pensiamo che l'opera e la cultura in generale è una cosa fondamentale nelle nostre vite, e che una vita senza musica, senza cultura, senza cinema, teatro sarebbe molto triste. Sottoscrivo in pieno, assolutamente, Gerard. 7-8 maggio, quindi, queste giornate dell'opera, sì. Ascoltare in modo nuovo è l'invito. Sì, ho giovani ascoltatori anche, però è giusto, l'idea è di, quindi ci vogliamo rivolgere ai bambini, ma anche a quelli che già conoscono l'opera, e invitarli a scoprire l'opera magari in un modo nuovo e diverso. E questa è la cosa che, quando dico che noi lavoriamo soprattutto per i professionali, una volta all'anno ci rivolgiamo al pubblico e vogliamo invitare il pubblico, a quello che non viene mai all'opera, di rientrare nel teatro, di scoprirlo. E appunto con certe cose l'opera va anche dalla gente. Questo ne parleremo forse dopo. Sì, stavo leggendo alcune delle iniziative proposte. Per esempio, a Barcellona ci saranno cantanti d'opera nelle metro, che insomma quindi è proprio sì. un modo per portare l'opera nella Infatti, strada. Sì, sì. Un'altra iniziativa a Brno, nella Repubblica Ceca, sì. In un centro commerciale ci sarà un coro di opera. Benissimo, quindi un'estrema contaminazione. Poi altre iniziative, sì, curiose. Tante cose. Poi nella Scozia, a Glasgow, vogliono fare il Rigoletto di Verdi in 20 minuti con solo un cantante, un attore e due musicisti, e così possono andare in giro per la città, vogliono andare nelle librerie, negli ospedali, nelle case per gli anziani, quindi veramente portare l'opera dalla gente. È una sfida, Rigoletti in 20 minuti è una bella sfida, però insomma, non so come lo faranno, però ci vogliono provare. Bisogna lanciare l'idea del seme lanciato, credo che sia questo, uno spot, appunto, ma molto importante per l'opera. Mentre leggo che anche a Bruxelles ci sarà una sorta di giallo a teatro, dove sarà, bisogna indovinare chi ha ucciso il maestro. Sì, quindi il teatro si apre, in tutte le città si apre interamente, quindi anche dietro le quinte, e poi l'idea, hanno fatto un cluedo per scoprire chi ha ucciso il maestro, e quindi la gente era in giro da tutte le parti del teatro e per scoprire e vedere chi è stato il, come si dice, il colpevole. Il colpevole. Perfetto. Allora, 7-8 maggio, ma direi che la cosa migliore è indicare il sito, il vostro sito per conoscere tutte le attività proposte, che è Opera... Opera Days, quindi www.operadays, tutto in uno, sì. E poi .eu. Perfetto, www. E in Italia, per esempio, posto che si fanno delle cose a Como, Torino e Verona. Benissimo, comunque aggiorneremo il nostro sito, le nostre pagine in Facebook, dove daremo tutti i link necessari per raccogliere le informazioni, euronet.eu per conoscere anche nelle altre nazioni quello che viene promosso e organizzato in queste, in queste Opera Days il 7-8 maggio in tutta Europa. Ciao Gerard, grazie, complimenti a te e a tutto il tuo staff e buon lavoro, insomma, che sono giornate particolarmente intense, credo. Sì, addirittura. Grazie a voi. Ciao, buon sabato. Ciao Gerard. Ciao. Ciao, altrettanto. Ciao. Europostit. Schubertiade 2011. Un festival itinerante tutto dedicato a Franz Schubert, che inizia a maggio in Austria ma prosegue per tutta l'estate. Fondato nel 1976 nella cittadina di Hohenems, nell'Austria occidentale, è velocemente diventato un meeting annuale di tutti quelli che cercano un'esperienza culturale eccezionale. Nel tempo si sono aggiunte tante località in tutta l'Austria, con 70 eventi e più di 30.000 visitatori ogni anno per seguire concerti di qualità, reading e lezioni. Per vedere il programma e tutti i luoghi del festival, schubertiade.at. L'altra Europa. Ja sõber, Eesti rahvuslik käratleja Papa Jansen pöördus kunagi Eesti rahva poole manitsedes oma rahvuskaaslasi alati eestlaseks jääma. Siis oli teine aeg ja tollel pöördumisel oli hoopis teine taust. 150 aastaga oleme eestlaseks jäänud, oma riigi kahel korral üles ehitanud. Täna pöördun sinu poole põhjusel, et kutsuda sind taastama. È un appello quello che sta facendo il primo presidente Estone. Il succo di questo appello è talenti tornate. Un appello per cercare di richiamare in patria almeno 25.000 dei 200.000 estoni emigrati all'estero. Un appello perché c'è bisogno di cervelli, c'è bisogno anche però di manodopera specializzata. È proprio una sorta di richiamo con un forte investimento anche in euro, anche se tante polemiche legate a questa campagna, ma per capire il perché di questo appello e quelle che sono state le reazioni abbiamo invitato un'amica dell'altra Europa e la detta stampa dell'ambasciata estone a Roma. Diamo il ben tornata a Ulle Todde. Ciao Ulle. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te, ci siamo conosciuti quando per noi hai passeggiato sulle strade ghiacciate in Estonia. Esatto. Esperienza bellissima. E siamo qua invece perché abbiamo letto di questo appello, insomma, di cervelli in fuga, del bisogno, della necessità di cercare lavoro all'estero, se ne parla tanto, è un problema anche qui in Italia, di tante teste che se ne vanno. Sergio Nava qui a Radio 24 ogni giorno, ogni sabato alle 13:30 ne parla in Giovani Talenti. Ci ha incuriosito questa cosa però appunto del presidente estone e anche di quelle che sono state le reazioni. Ci puoi fotografare quello che è accaduto e quello che sta accadendo? E praticamente questa è una programma Talenti Tornate, come hai detto, che è un'iniziativa del presidente estone Tomas Hendrik Ilves. E l'idea è di riportare a casa in Estonia i talenti che hanno avuto successo all'estero. La cifra offerta ad ogni talento che ritorna è 5.000 euro, che sono più o meno 6 mesi di stipendio estone. Mm-hmm. Il costo del tutto programma potrebbe essere più o meno 125.000 euro. Ok, ma ed è una cifra appetibile o è una cifra comunque considerata troppo bassa? Infatti praticamente molti si chiedono però se sia un successo o una farsa, solo perché sicuramente i soldi non sono forse la prima cosa che gente guarda se c'è, devono chiedersi se vivere all'estero, lavorare lì oppure tornare a casa dove tutte le condizioni forse non sono proprio quelli. Per esempio quest'anno il presidente nostro ha voluto di portare a casa 25 estoni. Mm-hmm. E fino adesso sono tornati 7, quindi un po' di successo ha avuto, però altri chiedono se veramente è solo la campagna elettorale, perché quest'anno ci sono anche elezioni per presidente in autunno, oppure è veramente utile per un paese come nostro. Ma 25.000 e 7.000 intendevi estoni, immagino? No, solo quest'anno sono 7. Ma 7 di numero? Sì, 7 estoni sono tornati tramite questo programma. Ah, quindi... scusa, ok, no, non avevo capito. Quindi insomma si li conosce bene anche uno per uno, immagino, perché insomma 7 non sono tantissimi. Sì, infatti. Ma Ulle, l'appello però è solo ai talenti o è proprio anche a manodopera specializzata come categorie? Sì, però sicuramente tanti estoni che lavorano all'estero si sono sentiti offesi, anche perché avendo i lavori semplici come autisti, donne di pulizia o camerieri non si sono sentiti inclusi. E quindi è iniziato un dibattito sul successo di nuovo di questo progetto, che chi è veramente talento? Potrebbe essere anche un autista oppure donna di pulizia, oppure sono considerati talenti solo quelli che veramente hanno studiato tantissimo, hanno fatto successo in altri paesi. Però anche per questi che sono via dall'Estonia tanti anni oppure sono già cresciuti all'estero, per esempio i figli degli immigrati nella seconda guerra mondiale negli Stati Uniti o Australia, che forse avrebbero piacere di rientrare in Estonia, però non trovano sufficiente l'incentivo rispetto a redditi che hanno nel paese estero. Certo, quindi insomma diventa questa proposta del primo ministro anche un momento di riflessione, no? E di confronto all'interno della nazione. Un'ultima domanda, Ulle, si parla di talenti e di cervelli estoni, ricordiamo che Skype è stato, lì è nata, i tre fondatori di Skype, i tre programmatori estoni che nel 2003 hanno ideato questo, che è uno dei software ormai più famosi al mondo, sono considerati degli eroi popolari. Loro sono rimasti lì in Estonia, continuano la loro attività lì all'interno della nazione? Sì, loro sono ancora in Estonia e questa sicuramente è una bella notizia. E sicuramente tutto il progetto, infine, alla fine, forse... è criticabile, però è anche una bella iniziativa che fa proprio di riflettere di queste della fuga di cervelli anche, e penso che anche in un paese come l'Italia dovrebbe essere affrontato con attenzione questa problematica. Assolutamente, già viene fatto, ma non con tanta attenzione, come appunto Sergio Nava ci ricorda ogni sabato. Grazie davvero, Ulle, ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Buon sabato. Buon sabato anche voi, grazie. Europostit. Maggio estone. Tanti eventi a maggio a Tallinn, che quest'anno è la capitale europea della cultura. Prima di tutto, Experimenta. La prima triennale dell'arte contemporanea dedicata ai giovani, che vuole essere una free thinking zone per invogliarli a creare le loro opere intorno ad un tema comune. Quest'anno è lo spazio. A partire da questa settimana e fino a giugno si possono vedere opere di giovani artisti da tutto il mondo, ma anche partecipare a laboratori per gli studenti con la propria classe. E per gli amanti dell'arte, il 13 maggio apre anche Gateways, una mostra di lavori di arte contemporanea ispirati al tema della cultura e del mondo sempre più interconnesso e sempre più vissuto attraverso i media. Per saperne di più, tallinn2011.ee. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa, il nostro viaggio in Europa. Vi ricordo facebook.com/l'altra Europa per trovare tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. La puntata è riascoltabile anche in podcast dal sito radio24.it. Ci potete anche segnalare, insomma, tutte le iniziative che raccontiamo anche nei nostri Europost-it. Come ben sapete, l'altra Europa è radio24.it. Vi segnalo due appuntamenti importanti. Il primo, sabato prossimo, saremo in diretta dal Festival dell'Europa a Firenze. La prima edizione di questo festival, viene raccontata l'Europa, l'Europa che si mette in mostra, l'Europa, insomma, dalle sue mille sfaccettature. È la prima edizione, è un tentativo appunto di respirare questo clima europeo anche con una chiave nuova. Tutto ciò succede a Firenze, noi ci saremo in diretta da là e tenteremo di portare il nostro contributo, cosa che facciamo settimanalmente anche insieme ad Euronet. Mentre il sabato successivo saremo in diretta dal Salone del Libro, faremo una puntata live, avete sentito, ci sarà John Peter Sloan e non solo, anche tanti ospiti, tante novità, tenteremo di fare una sorta di lezione d'Europa. Quindi due puntate in esterna, ma ci siamo, ci piace essere presenti sul territorio, così avremo modo anche di conoscerci. Comunque seguite il nostro sito radio24.it e lì troverete tutte le novità. Continua il nostro viaggio, andiamo in Francia, vi faccio ascoltare un estratto dal GR, un piccolo servizio per parlare di un'iniziativa molto molto particolare. Voyons donc maintenant ce dispositif de solidarité plutôt original pour rénover ou louer un appartement à des personnes en difficulté. Une association s'occupe de tout sur le principe du gagnant-gagnant. Laurence Naon avec Frédéric Bobin. Voici le dernier appartement tombé dans l'escarcelle de l'association SNL. SNL comprend. Lei si chiama Chiara Molinar, Molinar è un architetto ed è volontaria di un'associazione molto particolare, nata una ventina d'anni fa. Ci si occupa di clochard a Parigi e in tutta la Francia e lo si fa in un modo molto molto particolare. Il come ce lo racconta lei. Ciao Chiara, benvenuta all'Altra Europa. Ciao. Ciao, buon sabato. Grazie anche a voi. Intanto intanto la tua storia, cosa ci fai in Francia? In Francia ci lavoro, ci vivo ormai da 6 anni. Io ho sempre vissuto, sono di Torino, ho sempre vissuto in Italia, poi ho fatto una parte dei miei studi in Francia tramite uno scambio Erasmus e ci sono rimasta. Prima per uno stage, poi mi trovavo bene, insomma, adesso sono qui in pianta stabile. Ok, e lavori come architetto? Lavoro come architetto nell'agenzia di progettazione urbana della città di Parigi. Ah, complimenti. E com'è? Cioè, qual è il tuo bello impegno quotidiano? qual è la sfida quotidiana da vincere nel progettare o riprogettare Parigi? Ma è una sfida entusiasmante, perché comunque è una città che, anche se ha tutta la sua storia, cambia in continuazione, quindi ci sono sempre nuove sfide, nuovi quartieri. Poi non ci occupiamo solo della città proprio di Parigi, ma anche dei comuni limitrofi, dove ci sono problematiche anche diverse ovviamente dal centro, quindi è stimolante. Okay. Sono molto contenta. Complimenti davvero. Chiara, invece, e poi fai questa attività di volontariato, abbiamo trovato un articolo, ci ha incuriosito molto, ci puoi raccontare questa strana sfaccettatura appunto di una delle capitali più importanti del mondo e d'Europa in particolare? Sì, perché appunto Parigi è una città magnifica, però che ha dei grossi problemi soprattutto per le classi più deboli, più fragili, soprattutto a livello di accesso a un'abitazione, diciamo, decente, perché comunque i prezzi dell'immobiliare sono spaventosi. E la situazione peggiora praticamente di anno in anno, per cui ci sono sempre più persone che non riescono a trovare una soluzione abitativa appunto decorosa. Quindi questa associazione di cui faccio parte è nata una ventina di anni fa da un gruppo di vicini di casa che in modo un po' improvvisato si sono resi conto che nel loro stesso quartiere c'erano delle persone in difficoltà che dormivano per strada, hanno cominciato a occuparsene così in modo un po' informale, a stabilire un contatto, e poi hanno cominciato a pensare che sarebbe stato più intelligente trovare una camera dove alloggiarli, insomma, piuttosto che giusto limitarsi a salutarli mattina e sera o portarli da mangiare, e hanno affittato una cameretta nel quartiere, sì, per questa persona, così. Tutto è nato da lì e poi l'associazione si è sviluppata, sempre più persone si sono unite attorno a quest'idea che innanzitutto di trovare degli appartamenti per le persone che vivono in condizioni di precarietà tale che non riescono neanche a accedere all'edilizia sovvenzionata, popolare, certo. Non hanno i criteri, diciamo, per assicurare appunto di poter pagare un affitto per quanto minimo. Quindi di fatto l'associazione acquista immobili in tutta Parigi, i immobili decenti, nel senso che anche questo credo che sia importante, perché comunque sono... Sì, facciamo molta attenzione anche alla qualità, proprio anche a reinsegnare a queste persone a occuparsi bene del loro nuovo alloggio, per esempio di fare attenzione al risparmio energetico, gli facciamo ogni tanto delle piccole formazioni perché imparino le piccole economie quotidiane, che sono anche dei gesti un po' ecologici, e spesso gente che ha perso totalmente il contatto un po' con la società e quindi ha bisogno di un appoggio. Infatti la specificità dell'associazione non è solo di dargli un tetto, diciamo, a queste persone, ma anche di accompagnarli nel loro percorso un po' di reinserimento sociale, perché l'idea è che comunque restino da noi il meno possibile, cioè tra 1 e 3 anni nei nostri alloggi, e poi dovrebbero, appunto, attraverso questo percorso che facciamo insieme, avere la possibilità di accedere a una soluzione più definitiva, quindi attraverso ovviamente l'edilizia sovvenzionata, perché è difficile che trovino modo, diciamo, di comprarsi o di affittarsi un alloggio da soli. E quindi la tua attività principale è proprio questa, di accompagnare queste persone? Sì, praticamente l'associazione funziona su dei gruppi, quelli che noi chiamiamo gruppi locali, nel senso che funzioniamo per quartiere proprio, quindi i volontari e gli assistiti, diciamo, abitano lo stesso quartiere. E questa cosa trovo che è una delle cose più belle, perché ci permette innanzitutto di incrociarci anche per strada, così, di avere gli stessi riferimenti, di darci dei consigli anche di vita spiccia, tipo vai da quel, c'è un'offerta in quel supermercato, piuttosto che vai da quel panettiere che è il pane più buono, cioè cose molto terra a terra. Quindi crea una vicinanza che secondo me è importante. Quindi assistiamo queste persone che sono spesso isolate proprio, quindi la nostra presenza in quanto di volontari è proprio assicurare una presenza, perché poi sono seguiti anche da degli assistenti sociali che sono impiegati, ormai l'associazione è cresciuta molto, a circa una cinquantina di impiegati fissi, di cui la più parte sono assistenti sociali che si occupano, diciamo, non solo delle situazioni più gravi, ma anche di montare i dossier di queste persone per avere accesso appunto all'edilizia pubblica, quindi di tenere i contatti con le varie istituzioni, hanno un ruolo molto più strutturato. Noi come volontari abbiamo più un ruolo di appoggio e di organizziamo qualche piccola attività, ogni tanto siamo anche, in base a chi dà la propria disponibilità per questo tipo di attività, siamo anche impegnati proprio nella riabilitazione degli alloggi. A me è capitato di andare a dare il bianco in delle case, piuttosto che piccole attività di bricolage, diciamo. Chiara, pensi che sia comunque un modello replicabile anche in altre città, anche in altre nazioni? Beh, diciamo che qui funziona perché abbiamo dei grossi aiuti, o avevamo, non sarebbe il caso di dire, dei grossi aiuti dalla parte del pubblico, diciamo, delle istituzioni, perché dagli anni 90 in Francia è stata varata una legge che permette alle associazioni di ricevere delle sovvenzioni statali, per cui è stato un po' il momento di svolta per la nostra associazione, che prima era una piccolo movimento, diciamo, quindi con molti pochi alloggi. Oggi abbiamo più di 700 alloggi, quindi ovviamente non è che li compriamo tutti su fondi propri, perché insomma non è che fabbrichiamo i soldi in cantina, quindi e appunto i prezzi dell'immobiliare sono tali che non potremmo permetterceli, però abbiamo ormai un partenariato con il Comune di Parigi, con la provincia, la regione, lo Stato, cioè abbiamo sovvenzioni ormai a vari livelli, anche perché, detto fra di noi, la situazione dell'edilizia sovvenzionata è talmente critica, soprattutto a Parigi, che le istituzioni hanno una grossa convenienza a appoggiarsi su delle associazioni come la nostra, perché in pratica gli facciamo un pochino sì, insomma, del loro lavoro. Sì, sì, se si fa un lavoro appunto in altri posti non so se funziona, perché dipende un po' qual è l'impegno del... appunto da soli non ce la potremmo fare, o soprattutto non ce la potremmo fare in queste dimensioni. A questo livello. Chiara, grazie davvero per la tua testimonianza, complimenti anche per il lavoro che fai. Tornerai in Italia prima o poi? Non in vacanza? Sì, per la pensione. No, in vacanza è magnifico tornarci. Però per lavoro preferisci, insomma. Ma magari un giorno. Ma sì, grazie davvero, ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Ciao Chiara, buon sabato. Ciao, ciao, ciao. Tutti i siti relativi anche alla di Chiara li potete trovare sulle nostre pagine in Facebook, facebook.com/l'altra Europa. Europost-it. Notte bianca dei musei gratis. Se siete a Parigi la notte di sabato 14 maggio, non perdetevi la Notte dei Musei. Come tutti gli anni, a metà maggio, tutti i musei, le collezioni e i palazzi principali della città rimarranno aperti fino a luna di notte e si potranno vedere sotto l'affascinante luce notturna della città e, per di più, gratis. Mettetevi delle scarpe comode. Dalla cattedrale di Notre Dame al Centre Pompidou sono ben 192 i luoghi d'arte aperti, tutti da non perdere. Trovate più notizie e il programma dettagliato su nuitdemusee.culture.fr. Hallo und herzlich willkommen allerseits zu einem neuen Special von Parnassus Movie World. Heute werde ich euch die 10 erfolgreichsten Filme von Bud Spencer und Terence Hill in Deutschland vorstellen. Gemessen wird das Ganze an den Besucherzahlen im gesamtdeutschen Raum. Dafür ein paar Filme leider keine oder nicht alle Daten vorliegen. Quello che state ascoltando è un documentario, dura 10 minuti, sul fenomeno Bud Spencer in Germania. Perché Bud Spencer, il noto attore, che insieme a Terence Hill, insomma, è protagonista di tantissimi film, è protagonista in questo momento di un particolare fenomeno di costume in Germania, perché la sua biografia, uscita da poche settimane, si trova in cima, nella categoria tra l'altro saggistica, dei libri più venduti. Per capire il perché di questa cosa che ci ha particolarmente incuriosito e anche stupito, lo ammetto, abbiamo invitato un amico dell'Altra Europa, Gian Christopher Kitzler, si lavora a Berlino, anche se credo che in queste ore, in questi giorni, sia a Roma per seguire la beatificazione di Giovanni Paolo II. Ciao Gian Christopher. Ciao, grazie. Scusa, c'è stato un contrattempo. Okay. È il bello della diretta, ma sei a Roma per lavoro? Sì, per la beatificazione, ho fatto anche i giorni di Pasqua e ho coperto tutto per la radio tedesca nazionale, per Arde. Ricordiamo come si chiama la radio che... Per la quale... Io lavoro per la Deutschland Radio Kultur, però poi abbiamo una rete di radio regionali, pubblici, io lavoro per tutti quelli adesso. Certo, adesso arriviamo anche a parlare di Bud Spencer, però colgo l'occasione per scoprire quello che stai facendo, che approccio stai dando a queste giornate? Stai facendo una sorta di diario, stai seguendo qualche pellegrino, stai facendo una pura cronaca degli eventi legati al Vaticano, che taglio stai dando al tuo reportage? Io devo fare un po' di tutto, cioè io faccio certo cronaca, faccio servizi, parlo con i colleghi in Germania e poi faccio anche i reportage, i pellegrini che vengono, la folla che c'è, le preparazioni, la sicurezza, tutto questo, di tutto questo si parla, c'è molto interesse anche in Germania. Sì. Ci sono molti pellegrini tedeschi in questi giorni a Roma? Ma si aspettano circa 10.000, però precisamente nessuno lo possa dire, perché alcuni sono accreditati, alcuni no, alcuni vengono a conto loro, alcuni in gruppi, non è proprio c'è un numero preciso. Ok, quindi insomma sei sul pezzo, cioè, immagino la frenesia perché sono... e domani mattina dove sarai? Da dove seguirai tutta la cerimonia? Domani mattina un nostro collega sta proprio in piazza a parlare dal vivo, a commentare dal vivo. Io mi sto bene tranquillo in ufficio, faccio i servizi dall'ufficio, così lavoro più, diciamo, più concentrato. Okay. Bel lavoro da scrivania. Allora, lasciamo per un attimo il Papa e la beatificazione. E c'è un'altra sorta di beatificazione laica che sta avvenendo in questi giorni in Germania, che è quella a Bud Spencer. Come fa Bud Spencer a essere in cima alla classifica dei libri più venduti? Ma al primo posto bisogna guardare quell'elenco, perché dipende anche dagli altri libri che ci sono. Poi adesso, secondo me, è un periodo abbastanza favorevole per questo libro, perché altri libri interessanti non ci sono o sono già un po' vecchi. Cioè, sull'elenco c'è la biografia del capo, c'è una donna della chiesa protestante che poi ha fatto passato al semaforo rosso e essendo ubriaca poi si è dimessa. Vabbè, questo libro non interessa tantissimo. Poi c'è l'autobiografia del figlio di Kohl, che è stato discusso molto in Germania però già da un paio di mesi. Adesso è uscito Bud Spencer e ha fatto un grande impatto secondo me, perché lui è molto popolare, è amato dai tedeschi, cioè i tedeschi in qualche modo li amano, gli spaghetti western come lo chiamiamo noi, e vabbè, è un personaggio che interessa. Ma cioè, che fosse un personaggio interessante, cioè, tu già lo sapevi prima di questa uscita della biografia, nel senso ha un suo mercato in Germania e Bud Spencer è un attore che è venuto spesso, cioè i tedeschi seguono la vita privata di Bud Spencer, o è stato un impatto curioso anche per te quello di che ha avuto questo libro? No, io adesso ci ho un po' pensato, cioè secondo me tanti tedeschi della, diciamo, della nostra età, tipo 30, 40, 50 anni, hanno fatto le loro prime esperienze cinematografiche magari con Bud Spencer, perché quei film sono film di famiglia, magari era un po' più una cosa di maschi, cioè i figli sono andati con loro padre al cinema a farsi delle risate, così, cioè, le prime esperienze erano quelle. E poi certo, quando era uscito un film lui stava sempre lì nei talk show a parlare, è stato spesso in Germania invitato anche in televisione e la gente lo seguiva in qualche modo. Adesso i film le fanno un po' vedere un po' di meno, solo anche sui canali privati, però va visto ancora, sì. Sì, quindi insomma è seguito, è conosciuto anche dai più giovani. Ma parla tedesco lui? No, lui non parla tedesco, però cioè, io adesso ho letto che lui aveva imparato tedesco perché aveva una donna in casa che era tedesca, però ha dimenticato tutto. Però cioè, anche questo, diciamo, il fascio di quei film, secondo me il doppiaggio dei film è fatto molto bene, cioè, è anche divertente il film. Poi la voce di Bud Spencer in tedesco è una voce proprio che si riconosce, una voce molto marcante. Questo dà anche un po' il fascino di Bud Spencer, secondo me. Certo, insomma, è un personaggio amatissimo, quello sicuramente. Poi anche si sa in Germania che, cioè, lui non è solo il grasso un po' scemo, che lui ha fatto un po' di vita, cioè che lui ha studiato, che lui era campione di nuoto, che lui non è quello che dimostra nei film. Questo si sa in Germania, così la gente un po' lo ama. Certo, ma è lo stesso successo è per il suo compagno di spaghetti, per Terence Hill, o Terence Hill è un emerito sconosciuto in Germania? No, Terence Hill è anche conosciuto, però secondo me Bud Spencer va amato molto di più perché è più un tipo, diciamo, no? Cioè, l'unica cosa che Terence Hill ce l'ha sono i suoi occhi azzurri, cioè Bud Spencer c'ha, secondo me, molto più personalità, molto più affascino, secondo me. Ho capito. Insomma, abbiamo anche così percepito che comunque sono film che tu conosci bene e che insomma ti piacciono. Ma adesso anche non è che le sto guardando tutti i giorni, poi non sono di un livello altissimo, diciamo, però ogni tanto le fanno vedere nei canali privati quando io ci passo, ma in 5 minuti me le guardo anche. Okay. Insomma, altrimenti mi arrabbio, la mia vita, i miei film, questo è il titolo pubblicato da una piccola casa editrice, tra l'altro, che insomma credo che dovrà molto a Bud Spencer per questo libro che insomma sta spopolando in Germania. Jan, insomma, grazie, ti lasciamo al tuo lavoro, ma stai facendo anche un po' il turista lì a Roma o non hai tempo? No, oggi pomeriggio sono un po' tranquillo e così magari faccio un po' di turismo, però non vado al centro perché qua c'è la folla, io avrò un po', diciamo, fuori di Roma, quindi sto più tranquillo. Era da un po' che non venivi in Italia? No, sono stato anche l'anno scorso 2 volte qua a Roma per lavorare, cioè ogni tanto mi mandano quando uno va in vacanza, poi faccio questo lavoro qua. Ok, quindi insomma, che Italia hai trovato così a colpo d'occhio, Sì, sì, sono contento qua. Sì. No, che Italia hai trovato? Cos'hai? In Italia ho trovato. Sì, è sempre bello sapere un po' il primo punto di vista di chi non viene da un po' di tempo e si ritrova invece nella nostra nazione. Ma secondo me, diciamo, col berlusconismo è un po' cambiata l'Italia, no? Negli ultimi anni. Io la prima volta che sono venuto era nel 94, quando era il primo governo di Berlusconi. Il paese, secondo me, è un po' cambiata. Forse si sente più, diciamo, è un po' difficile dire, però forse si sente un po' più l'egoismo. magari negli anni 90 l'Italia anche era un po' più invitante, però queste sono cose da dire molto generalizzanti, però è cambiato un po', diciamo, con Berlusconi, direi. Quindi insomma una percezione così un po' personale, un po' professionale da giornalista abituato a vedere le cose. Grazie Ian, insomma in bocca al lupo e anche per te, saranno giornate intense, comunque buon lavoro a te e a tutti i tuoi colleghi. Grazie. Ciao, ci ritroveremo in una delle prossime puntate dell'Alta Europa. Ciao ciao. Grazie. Europostit. Il Reno in fiamme. 2000 fuochi d'artificio rossi lungo il fiume e le passeggiate che lo costeggiano tra Bonn e Linz. Ecco il Reno in fiamme. Tutta la valle del Reno si illuminerà per una notte il primo sabato di maggio. Non solo questo, però. Si potranno anche ammirare 7 grandi spettacoli pirotecnici dalle cittadine vicine e dai castelli della zona. Per celebrare il grande fiume, lo spettacolo pirotecnico è accompagnato da un programma di 3 giorni di eventi. Per saperne di più, germany-tourism.de. E questi sono i nostri Europostit. Vi ricordo ancora l'altra Europa at radio24.it. Se volete segnalarci iniziative curiose che trovate in giro per il continente, o comunque se volete scrivere alla redazione, oppure facebook.com/l'altra Europa. Abbiamo caricato tutti i link relativi agli argomenti toccati oggi, insomma tanti video anche di cui magari in radio si sente l'audio, però lì c'è la possibilità di vedere anche le immagini. Sto ripensando ancora al video parodia che sta spopolando su YouTube legato al matrimonio reale di ieri. Euronet.eu invece per trovare e riascoltare tutti i dossier che abbiamo toccato in queste settimane, in questi mesi con l'Altra Europa, e non solo, sempre nel sito euronet.eu potete trovare tutta l'attività e tutti i servizi che Radio 24 compone per Euronet. Quindi insomma l'Europa raccontata quotidianamente con tanti tagli diversi, ed è un ottimo servizio che la nostra radio mette appunto a disposizione di questa nuova cultura europea. Sabato prossimo alle 10 in diretta dal Festival dell'Europa da Firenze, il sabato successivo invece in diretta sempre dal Salone del Libro di Torino. Questi sono i nostri appuntamenti e vi aspettiamo anche lì live per conoscerci di persona. Un grazie a Claudia Carusi che con me ha scritto la puntata in collaborazione con Margherita Ina, in assistenza a Giorgio De Luca, oggi alla parte tecnica Peter Bescapè. L'appuntamento a sabato prossimo come sempre alle 10. Ancora ciao da Federico Taddia.